Scusa, c'è la C. No, mi è venuto un attimo di perplessità. Qui. Chi è? Che posso è? Io non vorrei dire chi è. Legga, legga. Forte, forte che non si sente. Legga, legga. Così si deve notare tutti i riferimenti. Mi presento. Lo leggo tutto. Qualche errore, ma non si è data. Sono colui che un tempo mi ha chiamato cantastorie, cantavo, raccontavo a grandi e piccini. Mi conosce gli occhi. Io proprio invece giustamente lui dice per l'occasione lascio che queste le immagini facciano le mie veci. Il motivo è semplice, arrivati a una certa età sento il desiderio di tramandare qualche bel racconto perché possa arrivare alle orecchie di molti nel tempo. La vicenda che vi narrerò è antichissima come me ed è una fortuna che io possa raccontarvela perché è noto che nel tempo le storie si mettono variazioni oppure si mescolano una ad altre perdendo ogni coerenza. Ebbene, da queste vicende molti hanno tratto ispirazione. Leggete, eh? Di solito si mette che ogni riferimento alla realtà è mi lasci la storia del mondo sostanzialmente. Una premessa a cui non posso rinunciare riguarda il lontano 2010. Poi si mette già fa 10 anni. Anno nel quale vengono riscoperte e datate alcune registrazioni del noto prof. Sartorelli, famoso al tempo per essere stato docente al Conservatorio di Vicenza. Si dice che il maestro a quel tempo vantasse di grande fama e apprezzamento, tanto che i suoi allievi amassero registrare le sue lezioni per poi ascoltarsene privatamente. Ma questo si vede che sei tutto. Ma la foto è straordinaria. Praticamente sarà. Scusami, riesci in qualche modo a farla vedere le foto? Sì, sì, ma è la Elena, scusami. La Laker notturna. Era la foto più simpatica che avevo. Sì, sì, vada pure avanti. Dunque, la reputazione e la stima di Tar Sartorelli nel tempo crebbero fuori di misura, tanto che l'esistenza di quelle famose registrazioni no. Cominciò a divenire leggenda e proprio per questo motivo qualche visionario avviò ricerche per ritrovare quelle mitiche pietre preziose. Eccola. Scusate, l'hacker capisco. Adesso. Lo scoprì. Ragazzi, non è andata a spritzare nel senso del mattino. Cioè, qui a striscia andate, proprio, è chiaro. Lo scopo di che in effetti, tu non ti sarebbe messo la nostra storia. Gli Adelson! l'ammiccante. Nel 2629. Ti ricorda qualcuno? Nel 2829. Adesso. Era nipote del famoso Moses Mendelssohn, Gaderson. Mi ricordi così fra 10 anni? Era come? No, la... Nel 2829 scoprì la situazione tra le rovine del vecchio chiosco vicino del San Pedro all'Arte. E secondo, dunque, secondo appurate alle 10 edificazioni, esse vengono attribuite proprio al noto caro vecchio. Beh, ormai sei pronto. Che l'ho conquistato subito con lui. Sì, ma mi verrà da ridere anche. Guardi la maglietta, scusa. No, la maglietta. No. I ritrovamenti furono la fortuna di Gaderson, il quale divenne un impresso ricco e famoso. Gaderson con quei soldi girò il mondo, fece innamorare 2362 donne, contadine, cameriere e cittadine, contesse e baronesse, tutto merito mio. Che questo si ricorderà fra 10 anni. Ma non lei, quindi no. Nessuna sfuggiva al suo charme. Tanto che arrivò ad incaricare il suo insignificante servo muto Stefano di trascrivere le sue numerose conquiste amorose in un ebook G4. Gaderson investì in borsa il suo capitale credito fino ad arrivare a livelli impressionanti. Ora però la festa è finita, occupiamoci di un tempo. Siamo a casa del signor Gaderson. Ora sì, perché è da vicino. Domani Moreno. Però Domati è un po' veneto. I parenti addolorati per la vicina signora. Ma sono tutti accanto. Guardando meglio però, non sono addolorati, anzi sembrano quasi contenti per la vicina scomparsa del parente. Ecco, è giunta l'ora. Il vecchio Gaderson è pronto per essere messo via. Poi è messo via. Ero scattato. E mettere via è un po' lontano. I parenti cominciano a cercare il suo testamento. Dove l'avrà nascosto? Dopo qualche minuto di forsennata ricerca, fuori zita. Eccolo, eccolo. Tutti si apprestano a lei. Nel Gerardo pensano. Si chiama Lo zio ci voleva tanto bene, ci avrà lasciato con le tasche piene. La zita. Mugugna. La mula da 300 fiorini. Oddio, speriamo venga a me. Zita si fa largo. Donna Miriam e Riccardo. Riccardo. Ma siete impazziti. Tra le occhiatacce dei parenti, estirandosi, schiarendosi la voce, dice: ora ascoltatemi bene. I suoi occhi diventano piccoli piccoli, il suo sguardo corre sulla carta da sinistra a destra con una velocità folle. La preoccupazione si disegna sul suo volto. Poco dopo, dalla sua bocca esce una sola parola, accompagnata da un grugno di che sorella. Poi attacco al mio fidato servo e compagno d'avventura Steforello. Lascio ogni mio bene. I parenti basiti si guardano attorno. Steforello non è tra loro. Lo stupido servo muto è fuori in giardino a pensare al nuovo regalo da fare al suo padrone. È al telefono con le alte sfere del potere romano. A causa delle sue condizioni però è costretto a scrivere SMS per spiegarsi. Sta combattendo una certa contattando una certa potere. Avevo scritto sul cellulare potere ma non si vede. Io adesso ho paura che compaia Buffè. Sta combattendo, contattando una certa Buffea, vecchia fiamma del padrone. Le vorrebbe chiedere di passare a trovarlo per tirarlo un po' su di morale, solo come lei sa fare. Ma ragazzi. No, non c'è un po'. Buffea sicuro. Tutti i giorni. Ma mai avrebbe pensato che il suo amato padrone, proprio pochi istanti prima, lo avesse incornato con la sua eredità. Però no, esatto, ancora non capisco. I parenti, furbi come faine, decidono di tacere. Steforello è fuori, non sa ancora nulla. I familiari cominciano a confabulare fra loro. Faremo finta di non aver mai trovato questo foglio, lo bruceremo, ne scriveremo uno nostro e faremo le giuste divisioni interne. Ci sono però due persone che, di morale salda e di cuore puro, ascoltano senza proferire parole: Lisetta e Filippo. E gli amici F.L. Due giovani promessi sposi, candidi come la neve. Lui, nonostante non abbiano mai avuto chissà che profondi rapporti di fiducia con lo zio libertino, quale era Jaderson, sono assolutamente convinti che la sua volontà debba essere rispettata fino alla fine. Così nel bel mezzo del parental tramato, i due ragazzi di soppiatto escono per spifferare a Steforello cosa sta accadendo alle sue spalle. Il servo stupido muto, ma non di certo così stupido, decide di attuare una contromossa al loro attacco. Di improvviso Steforello ha un'intuizione. Ma scusami, com'è che gli Adelson c'è una foto di Jaderson quando era vivo. La mia vista che ammicca. Oh, no, no. Ma è proprio la gamma. Jader, con durante i suoi lunghi viaggi, gli aveva raccontato praticamente il punto della sua vita privata. Una sera a scrivere il... comincia a scrivere un padronello epoca. Beh, ah sì, vedi quella ragazza, sì, la violoncellista che ha messo, questa è per la ranella, quella laggiù, ebbene, la conobbi qualche anno fa a Parigi, con lei non so come dirlo. Non mi guardare così, pensaci, non avrei mai sopportato lo scandalo, tutti i media mi sarebbero soltanto il blog, perché siamo nel 2089, avrei perso la mia bella recensione di archeologo, ho dovuto contro la mia volontà allontanarmi da lei e dalla mia unica figlia. Solo poche cose conosco di loro, tutto per mia piccola, ormai è l'età di mia nipote di Pesce, è una ragazza in età da marito e si chiama Gianna Kitty, che ha preso il cognome della madre. Ecco il lampo di genio. Alleato ormai con i giovani di Zetta e Filo, il sottorello decide di travestirmi da Gianna e qui ho paura. E di presentarsi come una figlia abbandonata tempo prima dagli Aderson. Una volta ho scritto una... il mio vestito. Pitonato. Io l'ho presa che non la bambina. Era la foto col coso pitonato. L'idea avrebbe funzionato solo se qualcuno avesse potuto parlare al posto suo. Lisetta sarebbe stata la sua voce e Phil lo avrebbe aiutato ad architettare al meglio il piano, visto che i suoi momenti di genio erano ormai sporadici e la stupidità sempre in agguato. In 4 e 48 la squadra escogita un piano e passa azione. Non c'è un momento da perdere. Lisetta corre a prendere qualche suo abito, veste e trucco, e trucca a Tesorello a Pintino. Guardate la metamorfosi di Steforelli. Dovrebbe fare tipo le linee, le pezzine. Il filosofo del Pedrone. Tutti ci guardavano male. No, ho scattato dopo la sua lezione. Sì. L'ultima lezione che guardavano male sulla camicia. I suoi capelli arricciati e disordinati, con un colpo di spazzola diventano lunghi e fluenti, e il suo abbigliamento rosso e sporco, un po' di trucco e profumo viene potente. Cioè, ho fatto un miracolo, in un battibaleno sono sulla porta d'ingresso. Steforello bussa dal trattamento, chi è là, dice qualcuno. Lisetta, che dà la voce al muto, accenna un flebile scusi. I parenti esclamano una donna. Nicolò, il più rispettato di tutti per merito della sua professione di dotto chirurgo. Me la ricordo proprio quando ha bussato la prima volta. Ma chi è là la prima volta? La sua anch'io. L'ha raccontata anche in famiglia, quindi la sono giù. Andate qui. Egli ha un gran talento nel bussare le cose sbagliate come nell'aprirle. Infatti in quel momento accade un imprevisto. Niccolò, nel vedere Gianna Schicchi, sente la voce. il re dietis. Non abbiamo messo la partita, mi sono dimenticata. Luca, aspetta un momento, perché eravamo partiti dai fumi di nastri, gli Aderson, è diventato un arco grazie a te. E adesso c'è tutta la spartizione delle reliquie. Ok, ci siamo. Quella musica. Sapete di quale musica sto parlando, dai. Quella musica che capita di sentire una volta sola nella vita. Quando qualche straniero mi chiederà, ebbene, quando la donna della tua vita si presenta di fronte a te, si intona, un re diesis, non potete sbagliare, è re diesis. E quando tu senti il re diesis, il re naturale, tu hai sentito re naturale il re diesis. Però è ma in realtà è sicuro. Sono giunte voci di una debolezza fisica del mio bambino caro e ho deciso di prendere il primo volo da Ferrari per venire di persona. Ebbene, quando la donna della tua vita si presenta di fronte a te, notare i suoi occhi. Già, no, accomodi un momento, dice Niccolò, in preda a un tremore febbricitante di emozione. Il sorello Gianna Schicchi si preoccupa e con una leggera inflessione francese domanda: si sente male? Lui: no, nulla, qui c'è tanto freddo, venga vicino al fuoco. Niccolò lo facendo di entrare, ammirandola tra sé e sé, nell'istante in cui le passa accanto, che bella bambina, al suo seguito li becca. Chissà, pensa Niccolò, questa bella fanciulla sarà un'amica della nipote, devo trovare il modo per farmi notare i suoi occhi. Gianna entra, tutti i parenti attendono l'arrivo dell'ospite un po' preoccupati accanto alla calma del defunto. Niccolò, si sentita con un filo di nervosismo nella voce. Niccolò, chi è? Entrarono Gianna e Lisetta al seguito. Buongiorno, sono Gianna Schicchi. I parenti più anziani improvvisamente perdono le forze, come file esaurite. Perdono le forze come file esaurite. Oh, questi figli dei sofficini. Perdono le forze come file esaurite. Gli altri cominciano a parlottare tra loro. Sono Gianna Schicchi, la figlia mai dichiarata pubblicamente di... giunte voci di una debolezza fisica del mio bambino caro e ho deciso di prendere il primo volo da Parigi per venire di persona a portargli un po' di conforto. Ma ora al mio arrivo la trovo senza vita. Ai, caso acerbo, ai, stelle crudele, ai, stelle ingiuriose, ai, stella varo. A quel punto, per consolarla, si avvicina Niccolò. Questo è il mio momento. Carissima Gianna, se può essere d'aiuto, sappia che suo padre ci ha sempre parlato di lei, le voleva gran bene, ha sempre detto che se mai un giorno lei avesse alla nostra porta, noi avremmo dovuto accoglierla a braccia aperte, perché avrebbe acquisito tutti i diritti che la sua posizione di erede primaria le conferisce. I parenti prendono. Ma che sta dicendo quell'infame? Ladro, ladro, furfante, traditore, birbante, inico. Sapevano vagamente dell'esistenza di quella donna. Sapevamo vagamente dell'esistenza di quella donna che sta facendo fuori l'intero bottino. Phil, che nel frattempo era uscito, il paese a cercare l'amico notaio, al suo ritorno esclama: allora, miei cari parenti. Se non erro, in base alla successione universale del diritto patrimoniale, mortis causa, lei dovrebbe essere la prima erede dell'intero patrimonio del decuius in questione. Esattamente, caro Filippuccio, risponde il notaio. Ora stenderemo la denuncia di successione. I parenti vorrebbero prendere a calci il destino, e lo scemo chirurgo, per averli ostacolati nel loro piano di redenzione. Il chirurgo, completamente affascinato dalla situazione poggiana, la portò al caffè Momus, sotto casa Momus, dove causa pienone del sabato sera fu costretto, nonostante il grande freddo, ad accomodarsi fuori. L'aria gelida che spirava tra i tavolini bloccò la debole schiena di Nicolò, che fu costretto a chiamare un'ambulanza per soccorrerlo. Gian, nel bel mezzo del trambusto generale, tra infermieri, curiosi e camerieri, trovò l'occasione per darsi la gambe. Salì sull'ambulanza e Lisetta, che faceva spesso finta di soffrire di sonnambulismo, una notte fu ritrovata in una camera da letto, come dire... No, scusami. E? Ah, è partita tutto caso. Nicolò, abbandonato, ma sempre più innamorato, decide che non avrebbe saputo vivere all'ombra di un amore impossibile. La sua fine giunse ben presto. E trasse ispirazione dalla morte della figlia di Shakespeare, interpretata dalla Bessè. I due amanti, Lisetta e Filippuccio, in principio contenti della ricompensa ricevuta dall'aiuto dato a Sestorello, si trasferirono a Roma, lontano dai domati, e vissero insieme molti anni, finché un giorno la loro vita cambiò totalmente. Lisetta, che faceva spesso finta di soffrire di sonnambulismo, una notte fu ritrovata in una camera da letto, come dire, non propriamente. Filippuccio, orgoglioso e tradito, decise di uccidere Lisetta e gettarsi, come la fece, nel letto di un altro, da Castel Sant'Angelo. Seforello campò 5 anni con i soldi di Aderson e divenne uno tra i massimi esperti sardoregliani della sua epoca. Posso dire che è vero. Analizzò la vita, gli scritti di Sartorelli e riascoltò le sue lezioni milioni e milioni di volte. Anna. La forma ciclica. Si appassionò all'antica opera 8-900 e cominciò a studiare la musica. Per generazioni Steforello fece tramandare l'insegnamento più grande che ricevette dal suo maestro Sartorelli. Dobbiate scusarmi, ricordo solo che riguardava qualche storia di Bottoni e Giacchi. Perdonatemi, la mia memoria ormai con l'età facilecca. Beh, meraviglioso. Beh, bisogna più tanti. la presentata, eh? Sì, la ma ecco la cosa di cammello, però è bello. No, è meraviglioso. Non è meraviglioso. Ti sei dimenticato di me, ma forse era ma va bene così. Va bene così. Perché ci sono talmente tante storie. No, no. E poi devo dirvi che... Possiamo, perché in realtà non c'è stato un passaggio. Ci sono milioni di riferimenti fattoriali. Chiaramente. Quindi vabbè.